sei? K. Sei Paolo? Sì, ti sono, mi senti? K. K, dai, perfetto. Dai, che ha detto, la seconda rotonda? Porta di seguire Cagliari. Non mi ricordo quella rotonda. Sì, pare che di qua teniamo per Cagliari, Cagliari Olbia, dai. Sì, infatti c'era indicato, era già indicato già da lì. Cagliari, Porto, sì, dai, dentro dove siamo usciti prima, dai. Se due stanno a diventare matti, perché hanno detto fa gira qua la rotonda, poi vai giù. Però tanto se seguiamo le indicazioni, amen. Sì, ma sì. Dovrebbe essere già qua avanti l'inserimento, quindi non ci cambia niente, dai. Emergenza, però si comincia a girare il coso. Ah, non lo so. Hanno detto che da disegno così, ma a me mi sembra tanto strana sta cosa, però. Figa, Vitali è arrivato anche qua. Porco Dio. Ma quel furgone lì? Ma veramente cosa fanno qua? Stai a sinistra qua. Qua c'è il video che divide le direzioni. Capa. Appena mi fanno entrare, ti vedi un bar, beviamo un caffè. Sì, sì, capa, se c'è una piccola area di servizio o qualcosa, c'ho su un panino, mangiamo qualcosa, dai, un caffè, qualcosa, dai. Ma su un panino? Infatti, no, io prima ho mangiato qualcosa. Ti puoi mettere qua lì, ma c'è qualcosa, Andrea, no? No, vediamo che compro gli onis col peste per mandare giù magari un furgone con la lamiera, capito? Perché effettivamente è una lamiera del cazzo, però speriamo bene. Aspetta che devo attaccare il processore, eccolo qua, va bene? Parla un po' di più. Ora. Cos'è Lu? Cos'hai detto? Le prova. Ma che cosa è successo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le altre che state in diretta? In diretta? No, non vi capisco. Cosa vuol dire? Il processore. Ah, allora così è col processore. 1, 2, 3, 4. E così è senza processore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un po' già cambio. Allora, adesso lo reinserisco di nuovo. E considera che questa radio non funzionava per niente. In linea di massima sta andando. Va bene in FM, va bene in AM, va bene anche in linea di massima in banda laterale. È leggermente sfottata, ma io non posso farci niente per quello. Però la modulazione è come lui, va bene? Sì. C'ho il Mickey Gain sotto la C e non è al massimo. Il Mickey Gain sotto la C. La potenza sono 20 watt modulati 50. Scappa, va bene, va bene. Ma dove si trova Luca? Dove si trova Luca? Dove si trova Luca? A casa sua, dove si trova? A casa sua, ehi, non fischiare, fai da brava che sono in cuffia. Oh, iaia, va bene, dai. Allora Gianfra, mi sa che la chiudo e la lasciamo stare così. E cicciami, K di Rogero. Sì, aspetta che ti faccio una verifica anche qua, un attimino. Quando finisco puoi iniziare a parlare. Vai. Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, canale 10, 27075, prove tecniche di trasmissione, IS0 Sparviero, IS0 Gianfranco, vedi un pochino? Ah, ma mi sembra abbastanza pulita, non c'hai... Non c'è i picchi quelli larghi che se ne vanno sull'altro canale, eccetera. E conseguentemente in alto e in basso non vedo niente, proprio è molto pulita come emissione, da quello che vedo nel range di un megahertz. Sì, Gianfra, te l'ho detto, praticamente tutte le resistenze variabili ho seguito quello che mi dice lo schema suo, come si chiama, lo volevo dire in fretta. Le misurazioni sono quelle, chiaramente per fare una cosa ben fatta ci vuole la strumentazione, io non ne ho, quindi pazienza. Però ho ottenuto un ottimo risultato, dai, non mi sono arreso, anche perché ho il telefono con una persona. persona, quindi molto più esperta di me, e mi ha dato alcune dritte. Era bloccata sta radio, non andava, non funzionava. L'ho comprata per non funzionante. Quindi bene o male ha fatto un affare, dai. Sì, ho fatto un affare, sì. Ma ero già pronto a mandarla al centro assistenza, perché è nuovissima, nuovissima. Ho detto al limite, boh, apro la mia. Poi pensandoci bene, ho detto, ma anche se faccio regolazioni delle riserve variabili, uguale alla mia, che è perfetta, è stata allineata tutta la Bianconi, non cambia niente, perché ogni radio, come mi diceva Luca, c'ha il suo allineamento, capito? E alla fine allora mi sono messo io da solo, dai, con le mie cartacce, e insomma l'abbiamo fatto andare, dai, già va bene, meglio di niente. La radio è buona, l'emissione ti dirò, forse perché c'è la porta chiusa o cosa del genere, però l'emissione è pulita, non sento i classici sottofondi, la televisione, cioè c'è solo radio, c'è solo l'operatore che si sente, e quindi è molto tranquilla, capito, potente ma tranquilla. Beh, sono isolato, Gianfra, sono praticamente chiuso, porta chiusa, tutto, perché quando faccio questi lavori mi metto le cuffie, ho delle cuffie un po' particolari, dove devo stare molto attento alle variazioni che fai delle resistenze variabili, capito? Se c'è qualche variazione, qualcosa, quindi mi sono completamente chiuso. E poi mi stavo controllando altre cosettine, e vabbè, dai. Sono contento che la radio va, perché è talmente nuova che è un peccato veramente metterla da parte. È più nuova di quella che ho io, però dai, già va bene, ok. Me la fai chiudere, Gianfra, così faccio pulizia qua, perché c'è un casino, che casino non ti dico. Da me lo stesso, guarda, ho finito di saldare poco fa, mi sta affarando, ma in cose un pochino più complesse. Niente, fai pure, io vado a vedere cosa è successo, se riesco a vedere dei parametri decenti su dei segnali particolari. D'accordo, dai, tanto c'è anche Luca, la chiudo, poi la lasciamo andare. E la mentolina è già in funzione, ottimo, dai. Ti dirò che non si sente più di tanto. No, l'ho tutta lubrificata, tutta pulita, tutta... dall'ora di pranzo ho richiuso qua dentro, non ho manco pranzato. Neanch'io, io sono un panino, ho iniziato alle 7 di stamattina a svegliare. Però in realtà ci sono da 2 settimane. Uno l'ho risolto e l'altro mi sta ancora, diciamo, sul groppone. Niente, ma è sempre così con le apparecchiature nuove. Comunque, ricordati di metterti in carica con l'aggeggio, che mi servi tu poi per fare delle prove. Io Gianfra, sì, mi hai detto quale? L'SDR, DMR, come si chiama? Quello DMR digitale, dovrebbe essere, io non me ne ricordo più neanche, speriamo che di azzeccare i comandi al primo colpo. E le memorie sono quelle che hai messo tu, mi hai già fatto, quindi adesso lo faccio caricare e poi sono qua, non c'è problema. Lucarie, chiudo questa radio e poi riprendo, va bene? Esatto, perché sto facendo roba. Oh Lu, metti la portante, voglio vedere il segnale se è uguale all'altro. Cazzo, me la mento se era così il segnale, boh, si è toccato anche, se c'è anche lo smitter da regolare, mi sa che non la chiudo, boh, vabbè dai, la lascio stare così. Aspetta, è lui, che cambio radio, attacco l'antenna alla mia, ma lo dai un secondo e poi mi rischiacci la portante, schiaccia qua, voglio vedere quant'è. Ok, adesso cambio antenna e poi me la rischiacci, aspetta. Ma è normale che io lo senta S4 appena. S4, no, è 9.10 qua già, Luca. Vabbè, lo faccio con te che Luca sta lavorando. Schiaccia la portante, Gianfranco, senza parlare. Ok, aspetta, te la richiedo che cambio radio, voglio vedere se i segnali sono vuoti. Schiaccia Gianfranco. Questa l'ho fatta io, questa l'ho comprata così. finnescando qua. Cosa? Stavo finnescando. Sì, perché c'è, ci sono le cuffie attaccate, c'è un casino, fammi mettere a posto. Va bene, Gianfrara, adesso la chiudo, intanto i segnali sono guai. Sì, comunque segnatelo magari, 27.530, così se c'è un ricevitorino, ma anche senza antenna, senza antenna, guarda cosa succede e vedi un po'. Ehi, ehi, va bene, ti ringrazio per il momento e la chiudo. Ok. Luca, stavo attaccando il microfono. Ah, ho capito, non ho sentito, dimmi. Ho detto che stavo agganciando il microfono. Ah, cavolo. Mi sono appena rientrato, dai. Sono andato a fare una passeggiata, sono usciti presto. E siamo qua. Cazzo, un caso, minchia. Cioè, sta bene fuori, Io sto bene, sì. Non è così malvagia la giornata. No, io non sono uscito lui perché ieri sono uscito in moto. C'ho la gola in fiamme. Cazzo, non so più si muove bogu bogu, Cazzo, perfetta. Già va bene. Aspetta un attimo, sto mettendo a posto qua. Bene, mi ascolti, Luca. Aspetta, ci avevo la caramella in bocca. Bene, mi ascolti? Sì, benissimo. Aspetta un attimo che sono andato a comprare un telefono cordless, quanti cazzo diciamo, vabbè, quelli portatili. Devo questa ragazza, però mi sa che lo sta caricando, aspetta. Ehi, fai, già sono qua. Oh, c'è qualcuno su 10? Ci sono io, avanti. Ciao Caleb. Sto a posto. Ti sono il grande. Poi quando ho tempo mi faccio tutte le regolazioni. Sì, non stai facendo bene roba. No, poi vado ad ascoltare giù nelle bande basse, già c'è sempre quel discorso là, però la ricezione è buona. Sì, vabbè, quel discorso là è un discorso molto, molto fattibile. Se tu consulti quella persona là, lui sa già che cos'è. Non c'è problema perché l'ha fatto anche al mio e l'ha cambiato anche alla mia radio, capito? Ehi, poi sono entrato su Radio Sublas dove ho acquistato delle cose. Ci sono dei baracchini in base, ma veramente belli, 12 canali però sono, a 2,20, 60 euro, 80 euro nuovi, ma belli veramente. Addirittura, buono. Quando ho capitato li faccio vedere, infatti ho visto il prezzo, poi ci sono, hanno già iniziato a vendere Radio Super, sta vendendo anche roba della Kenwood, c'era un ricevitore della IAE su 3,90, bello grosso, a 2,20, poi c'era la T230, questo è piccolino, 130 a 230, poi c'è l'alimentatore esterno, l'MC80, tutta roba nuova, l'MC85 lo stanno vendendo 120 euro. Che 120 euro? Oggi vendono 70 euro. No, io sto parlando di roba nuova, amica. Ah no, deve essere ritirato qualche blocco, c'è un sacco di roba della Kenwood, tra cui c'è l'alimentatore, l'accordatore, quello piccolo, tu c'hai la C230 o 130? No, io avevo la T230, l'ho venduto e sto cercando la T250 per mettere qua nella linea del 140, ma sono tutti impazziti, ne ho trovato uno nella provincia di Cagliari e ne vuole 300 euro. Bah. Riga, intanto faccio la chiamata generale qua sul canale 10, se c'è qualcuno. C'è qualcuno sul 10 che vuole entrare? Ci sono io, ma sono in ascolto. Ciao Gianfra, ben sentito. Ciao, ricordami il nome che non me lo ricordo più. Roberto. Sì, ecco Roberto, non deciso, mi sembrava. Ok, sì, di quello che hai detto prima, qual è quello in Sicilia? Mi pare che c'è quello della Sicilia o di Roma, perché ce ne sono due. L'ho visto proprio stamattina, siccome io avevo acquistato roba anni fa, e mi mandano sempre le notifiche. Ho visto, sono entrato e c'è roba carina, e poi c'è anche addirittura di quel 9,50, di quel Barrett 9,50, ti danno tutto il frontalino intero, che costa un po' di soldi, con tutto il display, eccetera, eccetera, costa 2,45, nuovo quello. Sì, lo conosco, ho comprato varia roba. conosciamo, dice Vittorio, da una dove parte. In vendita, ma costava una cifra, una cifra veramente grande, grande, grande. Ma poi ho visto, adesso hanno messo anche degli amplificatori lineari grossi, di roba professionale, però da un kilowatt, anche oltre di un kilowatt, altre cose che sono degli armadi, ma belle, cioè a norme militari, belle, belle bestie, che fanno anche le HF, belle, belle cose, roba tedesca tra l'altro, no? Io avevo preso diverse cose, soprattutto ho preso una bella antenna di anni fa, l'avevo solo provata, non l'ho mai neanche installata, nel senso ho fatto solo la prova, e basta, un'antenna di quelle da campo, direttiva, tutta a norme militari, pieghevole, una bellissima antenna, mi ha dato anche il palo di sostegno in materiale plastico, però non è, ci vorrebbe a lungo per farla andare. Sì, ci sono vari apparati, vari sistemi anche a microonde, c'è una volta radio che però a noi non interessano, perché sono su quella banda, la banda militare, quindi vanno dai 20 fino ai 40, 45 credo, in FM, con potenza di un watt, e c'hanno anche roba armena, russa, belli quei ricevitori russi, li hai visti? Sì, sì, l'ho visto, ma poi la cosa bella sono anche le apparecchiature da laboratorio, di grandi marche, addirittura Rode Schwarz, HP, Racca, di tutto, cioè, magari non saranno di ultimissima generazione, ma sono degli apparati che all'epoca costavano un saccaccio di soldi, e loro te li danno collaudati, e provate collaudati pure, oppure ci sono qualcosa da mettere a posto. Poi oggi ho visto anche un trasmettitore FM, broadcasting, piccolino, vabbè, a livello domestico, dai, da 5 watt, bellino però, per quel prezzo si poteva anche prendere. Sì, l'ho visto io, questo anch'io, è quello tipo autocostruito, sembra, guarda. Sì, quello è per fare una radio, per fare il quartiere, così detto. Sì, sì, c'hanno parecchia roba, belle quelle antenne a tubo telescopiche, le ho viste quelle, solo che la spedizione di lì ti deve arrivare un tir. Anzi no, non tiro, perché in realtà sono piccole, come solo che ci vuole il compressore per tirarla su. Sì, ma poi c'hanno anche quei tralicci, hai visto quei tralicci militari, tutti motorizzati, oppure con l'argano, gruppi elettrogeni, container, rimangono di tutto, avevo visto anche un laboratorio completo, cioè completo nel senso, poi ci dovevi mettere tu la strumentazione, gli alimentatori, eccetera, ti avevano tutto il bancone con il frontale inclinato, ma bello, è quello tutto fatto bene, diciamo, i vecchi laboratori, quelli che c'erano nelle scuole professionali, ma di tutto di più, cioè, poi non parliamo di attrezzature, parliamo da generatori, cioè ricercatori Geiger, maschere antigas, cose di radioattività, cioè di tutto di più c'era di lì, anche le pastiglie per la cosa, quando ci sono le cose radioattive. Infatti quale sarebbe utile per l'acqua di Sassari, no, del rubinetto? Sì, vabbè, dai, dipende dalla zona, io avevo l'acqua del rubinetto, e ti posso garantire, c'ho il depuratore, vabbè, c'ho i filtri a carboni, e l'acqua mia, io quando bevo le altre acque di imbottigliate mi rendo conto subito la differenza, subito, subito, subito, solo l'acqua Sant'Anna si assomiglia, infatti quando bevono a casa mia l'acqua, io non la compro di acqua, dico che è buona questa acqua, che è buona, sì che va del rubinetto lì, come. Sì, no, io solo acqua in bottiglia da San Leonardo, che va bene, abbastanza buona. Certo, mi dirai, adesso ho questi problemi della plastica, però quando sei vecchio non te ne frega niente, capito? Te ne puoi mangiare anche a tonnellate di plastica. In Sardegna la migliore acqua che abbiamo è la Sette Fuentes, però purtroppo poi le acque molte volte vengono inquinate, non vengono più controllate. All'inizio era la migliore acqua che avevamo in Sardegna, la Sette Fuentes, la San Leonardo, perché io mi salto sempre a San Giorgio, conosco uno che c'ha un laboratorio di analisi, ho detto, ma cosa San Giorgio, la Sabifi, che San Giorgio è acqua di pozzo, cosa è acqua di sorgente? No, non è, a volte la gente parla senza pensare. Io riconosco che fa le analisi, certo fanno passare certe acque che fanno cagare, tipo la San Martino che è acqua di mare, però le altre sono abbastanza controllate, certificate, perché sennò si passano dei grossi guai. Tutto lì. La peggiore nel campo io credo che sia proprio la San Martino che è acqua salata. Sì, la San Martino in assoluto è l'acqua col maggiore contenuto di sodio, che è una cosa assolutamente fuori norma, norma nel senso che le acque minerali imbottigliate va bene, entro le norme, però noi in Italia non esiste un'acqua che abbia i valori di legge, però per essere messa in rete, non parliamo imbottigliata, l'unica acqua che ha i valori abbastanza simili all'acqua di rete, parliamo di acqua ideale di rete, è l'acqua Sant'Anna. Tutte le acque, io ho visto, c'ho una comparazione, ci saranno 1000 acque minerali imbottigliate in Italia, l'unica che si avvicina ai valori standard, diciamo, per l'immissione in rete è l'acqua Sant'Anna, tutte le altre sono di gran lunga fuori. Quella San Martino c'ha un contenuto di sodio di 750 e residuo fisso di ferro di 1300 e i valori per i bambini non devi superare l'uno per un neonato, e qua ne ha 750 e la salita, hai detto bene tu Gianfra. Sì, acqua di mare praticamente, e vabbè. Comunque, quelle là, le sette fuentes, eccetera, quello che potete vedere, le sette fuentes sono leonate, sono abbastanza buone, abbastanza tranquille, ho detto minerali, quindi c'è anche con la classificazione. Poi, niente, se tu bevi l'acqua di rubinetto, comunque allo stato brado, cosiddetto, ho detto battute che ci abbiamo, ti prendi ferro, ruggine, che fino a fine messa, perché è veramente una cosa indecente. Però, vabbè, con tutti i casini che ci abbiamo adesso, non stiamo a guardare per il sottile, no? No, vabbè, diciamo ci sono certe zone, le tubature sono antiquate, grazie a Dio noi ce l'hanno rifatto da poco, il depuratore è abbastanza vicino, in linea d'aria sarà a 500-600 metri, il potabilizzatore, c'è lo sacrato vicino dove abita lui, la linea ce l'hanno fatta da poco, adesso l'hanno rimessa per l'ennesima volta, l'hanno fatta mi pare 5-6 anni fa la linea, adesso per l'ennesima volta l'hanno rimessa nuova, non ho capito per quale motivo, dove abito io, hanno rimesso di nuovo le condotture nuove. E cambiando discorso, come mi ascolti con questa radio, Gianfra? No, va bene, forte, forte e chiara, diciamo così, dai. Mi stai ascoltando tu con l'altoparlante esterno o con cosa? No, con l'altoparlante interno, che però non è un altoparlante normale, quelli che puoi vedere hanno tutto un coso visto di un supporto antivibrazione, hanno una gomma spessissima, sono abbastanza... E io chiedo, no, no, siamo tre volte, non è un controllo, tre volte vengono ascoltati con radio. Rispondi al telefono. Scusa, la suoneria. lo so, si riconosce oramai. Poi io stavo girando un po' dappertutto. C'ho la testa tipo pallone. Non è bolso mio. Per carità, c'è una soluzione, la scarichi ma non va bene. A volte le cose sono veramente complicate. Io lo so, molte volte bisogna avere più concentrazione, c'è troppo intasamento normalmente. E poi quando ti prende il vizio di fare due cose alla volta. Sì, non dire a me, il lavoro mio, che te ne stai andando da una parte all'altra, molte volte ti esce il fumo alla testa, stai facendo uno, poi viene l'altro, poi viene l'altro ancora, ma questo devo ricordare cosa dovevo fare prima e ti dimentichi che devi fare un'altra cosa. Alla fine, se non stai attento, ho tre segni, adesso mi sto abituando, nella scrivania mi segno un po' di roba, così di domani mattina c'ho già la memoria sveglia. Sì, vabbè, ma quello del lavoro ci sta, ci pagano per quello. Il problema è che poi lo stai facendo per hobby e è massacrante, veramente massacrante. Poi non si finisce più, devi aspettare l'attimo fuggente, perché fugge realmente. C'era anche Claudio poco fa, vediamo un pochettino se è ancora al telefono. Ci sei Claudio? Ho sentito di sfuggita Luca, facciamo un attimo di bianco, vediamo se vuole entrare qualcuno, se no riprendi tu Gianfra. Dai tu Gianfra. Siamo soli su. No, Claudio forse sta ancora abitando con l'apparecchio. Cosa vuol dire? No, No, poi ho sentito il telefono, un attimo, ho detto bianco il telefono. C'era la canzone, piange il telefono, ho detto bianco il telefono. Infatti. Stavo pensando di farmi fuori con l'apparato militare che ho, ma sono indeciso, sono molto affezionato. Ma d'altronde ho cambiato quasi tutta la stazione, quindi l'unica cosa di vecchio che ho è il mio primo PS2000. Vabbè, PS2000 è una grande radio, anche se sembra un po' plasticone, però all'epoca era 10 anni avanti a tutta la concorrenza. E beh, è l'unico che ha ancora venduto, con tutte le critiche che le hanno fatto, è l'unico che è rimasto ancora in vendita. Ah, è ancora in produzione perché? Credo di sì, perlomeno è un apparecchio oramai che ha un suo particolare segmento, capito? Fa tutto un po' bene, senza grandi pretese, però fa tutto bene. Tu figurati che è uno di quegli apparecchi, tra l'altro, che ha come media frequenza, come sera, con frequenza intermedia, va sui 12 kHz, quindi basta metterci un cavo, collegarlo lì al computer e ricevi anche la radio DRM in digitale in HF, e ti posso assicurare che quando ci ho provato era notevole, veramente notevole, e lo faceva il PS2000, è un ottimo apparecchio, veramente benefico. Qualcuno si è lamentato che era un po' troppo complicato da usare perché c'era un sacco di cose, però chi lo conosce, chi lo sa usare è veramente soddisfatto. Ho sentito dare alle motori importanti che è un'ottima radio, all'avanguardia all'epoca, nel senso era uno dei pochi che ti poteva addirittura connettere col telefonino e trasmettere dal remoto, dice. Io non l'ho mai fatto perché non ce l'ho, però chi lo sapeva usare l'ha fatto. Sì, c'è all'interno un modo talmente talmente serio che all'epoca del D-Star, se ben programmato, poteva fare anche la ponte digitale, una cosa pazzesca, perché lo faceva in analogico praticamente, non faceva altro che riportare il segnale in cross band in maniera veramente notevole, proprio lineare, e ciò dimostra la montata della radio. Ne hanno detto di tutti i colori, poverino, ma non se lo meritava, perché poi sono uscite tante altre porcherie. C'ha tantissimi tasti, è vero, ma tanti, ma veramente, per essere una radio tanti, tu figurati che io ne ho uno che va veramente bene, che è un Motorola in HF, che c'ha la tastiera, due manopole, una per volume e una per la sintonia, non c'ha niente altro. Sì, ma i radioamatori così di vecchia generazione preferiscono il monopolone e tutte queste funzioni, sottomenu, molte volte non li apprezzano, vogliono una radio intuitiva da utilizzare. Però quando è uscita era una radio, da qualcuno è stata un po' denigrata, però usandola col tempo i radioamatori, quelli che l'hanno usata, la continuano a vantare, c'era un'ottima radio ed è ancora una buona radio considerando che c'ha 20 anni. Sì, tra l'altro la mia è come nuova, non nel senso perché è piena di polvere, come nuova, nel senso che me l'hanno rimessa a nuovo quando era successo il tipico difetto del 2000, no? Cioè, su molte partite di queste radio avevano messo le medie frequenze non della murata, ma di case un po' disgraziate, e risultavano difettose. Dopo un paio d'anni sentivi delle scariche anche senza antenna, ed erano le medie frequenze che partivano. Io l'avevo mandato su, mi era costato un pacco di soldi, veramente, ma l'hanno fatta a nuovo, poi quando fai quelle operazioni te lo ritarano tutto, e mi hanno detto è meglio di quando era nuovo, perché le medie frequenze le dureranno decine e decine di anni, infatti è ancora qua. Non lo uso, poverino, perché è vecchietto ed è un peccato veramente, però al vostro tempo è tutto collegato, è anche con l'antenna, tu comodi. partire con questi attuali che sono dalla Radio Monitor praticamente, però insomma ha fatto un grande servizio. Sono rientrato. Sì, ciao, tu sei il colonnello del TS2000, Giafra? No, ho proprio il primo che è quello grigio. Sì, perché poi avevano fatto la versione nera, ce ne sono diverse, però ripeto, adesso lo stanno rivalutando, considerando che prima l'hanno un po' denigrato tutti quanti, tutto plastica, qua, là, una radio troppo complessa, eccetera. Però qualcuno, e tu sei uno di quelli, lo stai apprezzando e l'hai apprezzato. Ok, vai Claudio. K. L'ho apprezzato anch'io tempo fa, poi però avevo necessità di altro, una bella radio, non c'è problema. KK, va bene. No, c'ho molta mal di gola, robe. Faccio passaggi corti, dai. Riprendi, Gianfra. Là, guarda, non ti dico cosa ho passato io per il mal di gola. Sono dovuto ricorrere addirittura al cortisone. Cortisone mattina e sera, perché non mi lasciava dormire. Sono rimasto 4 giorni che la notte mi svegliavo di colpo perché mi saliva questo, come si dice, questo groppone in gola. E nonostante tutto, poi mi ho preso anche l'antibiotico per un più di una settimana. Andava tutto bene, iniziava ad andare bene, adesso le notte mi sta, sono tutto intasato ancora. Guarda, è una cosa micidiale questo mal di gola di questo periodo. Lo so, bel casino, vabbè, se sentite rumori c'è mia moglie e mia figlia, le sta asciugando i capelli, dai. Poverina, non si può muovere, tocca fa pure la barrucchiera. E vabbè, avanti, vabbè. Come stai usando? Il 14 o il 43? No, sto usando il 14. No, bella, si sente, bella modulazione. Ok, vai Giaffra, a te tocca. Tu invece Giaffra la stai usando? Aspetta, una curiosità, non stai usando quello che ti ho detto che facciamo lo scassetto, vero? No, sto usando quello che praticamente ho messo a posto, quello che abbiamo fatto le prove noi, dai. Sì, infatti io non ho fatto perché era tutto tranquillo. Io sto usando apparecchi un po', come si dice, fuori schema, ecco, diciamola così. Ok, una domanda, ma quel 950 Barrett, quello lì funzionante, cioè era funzionante, sono state fatte delle modifiche, chi le ha fatte quelle modifiche, Gianfra? Non lo so, guarda, ma l'avrei già chiesto, ma non vi chiedere di queste cose perché non ho la più pallida idea, e poi non so neanche la natura delle modifiche, sono apparecchi un po' particolari, quindi una cosa un pochettino diversa dal ramo amatoriale. No, quello che la domanda te la sto facendo, non sai per quale, perché ho visto, come ti ho detto prima, tutto il monitor, tutto il frontalino intero, con la scheda dove c'è il display, eccetera, eccetera, che la stavano vendendo, questo Radio Surplus. Secondo me questa scheda, il frontalino non è che mi piace più di tanto, ne hanno messo questi due ingressi microfonici, poi come ne attacchi uno non ti permette di entrare nel menu, eccetera. Volevo capire se con le modifiche hanno toccato anche il pannello frontale, diciamo, di comando. Non lo so, non so rispondere, non me lo ricordo perché era, ce l'avevo sì, ma era fermo da tanto, perché oramai era sorpassato dal punto di vista di utilizzo proprio, ecco, infatti ho dismesso quello, ma ho dismesso anche radio di un certo livello, tipo l'ICOM, cos'era quello lì che c'era anche Claudio, il 9004, credo, per passare a roba più moderna, decisamente più moderna. Ok, Claudio, vai a te. 7004, Gianfra. 7004 è quello che avevo io. Va bene, perché non mi senti bene roba? Sì. No, oh, ti sento benissimo, solo che adesso mi devo abituare, ancora ho messo la colonnina interna, esterna con questa radio. Ti sto ascoltando con il suo altoparlante, si sente benissimo con l'altoparlante in notazione, dai. Sì, sì, sì. No, no, ma già va bene. Ma va bene questa radio, dai. No, le 4.30 non attacco perché sennò Gianfranco mi uccide, che è troppo forte in modulazione, capito? Questa è un po' più tranquilla, diciamo, dai, un po' meno fastidiosa, capito, tutto qua. Avanti Gianfra. Break. Registrato. Gianni, se non sbaglio. Ma la cosa più bella è di questa, che uso un termine molto improprio, che l'imbuto che generi è un imbuto stretto, capito, molto, molto pulito. Sull'altra invece l'imbuto è molto largo, quindi è probabile che sia anche da quella che fa quell'effetto. Vorrebbe ricalibrata sicuramente. Avanti Gianni, buonasera. Buonasera a tutti. Ne ho più nulla da questa parte. Ciao Roberto, ciao Claudio, sentito anche a te, ciao Franco, non so chi ci sia, tutti gli altri che ci sono, se ci sono altre persone non li ho sentiti e quindi si ritenga salutati. Ciao Gianni, ben sentito, vai Claudio. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Ottimo. Ottima modulazione, ottimo tutto, ti ascolto benissimo stasera, come spero di ascoltarti tutti i giorni così. Avanti Gianfra. Sì, chi è avanti? Chi era? No, ero io. Sempre volevi scavalcare così? No, ho detto la mano, che c'avevo la mano in mezzo alle gambe. No, lei, ho fatto una battuta a Gianni perché è un po' di giorni che siamo tutti un po' in avaria con le radio, Gianfra. E Gianni era in paranoia per il Galaxy, ma sta uscendo magnificamente bene, non c'è problema già. Va benissimo, va bene, bene, bene. Era solo una tua distrazione, dai. Riprendi, vai per Roberto. No, va benissimo, la radio a parte quello che è cosa a me non mi piace, già lo sapete, inutile che lo ripeta, però la radio è chiara, nel senso bella pulita. L'unico difetto è il solito, ecco, che a me non mi piace, però ognuno è libero di fare quel che vuole. Ho visto, Clau, alzato lo sguardo oggi, ho visto la tua filare, non l'avevo mai notata. Sì, dalla strada si vede, perché ci sono i due pali che sono da una parte e dall'altra, parte da lì e poi si congiunge all'interno, capito? Ma già si vede. Quanti metri è aperto quel dipolo? 35 metri. 3,5, così ha detto? Sì, 35 metri. Quindi era tutto palazzo di bigli. E beh, se non c'era posto non potevo piazzarlo, quindi il posto c'è, già va bene. Avanti Gianfra. Io stavo pensando di andarmene a pranzo. Scattano, 7:15. Oggi io l'ho saltato, che l'ho preso a questa cosa, ma tanto è una cosa inutile perché neanche ci vedo più, quindi cosa mi metto a fare? Vabbè, la vicenda Carrogna, vero Claudio? Sì, la vecchiaia Carogna ci sta dando il tempo di fare le cose, dai, piano piano, avanti già. Questa è la rossa, Paghi, non si vince più qua. Cosa? Che non si vince, ho detto, cazzo, vecchi hanno il bastone. Sì, vabbè, io se vuoi va, non siamo più giovani, già abbiamo la stessa età, oramai siamo in fase di decollo, anche noi, porca miseria. Quanto faccio in fretta al tempo. Vabbè, avanti Roberto, riprendi. Vabbè, mi ha chiamato mia figlia ad andare adesso, dai. Ci sentiamo un altro momento, magari dopo. Oh vabbè, ci sono le partite dopo, c'è la Juventus in base là, e altre partite oggi. Vi devo lasciare, dai, ci sentiamo con calma. Ciao Claudio, Gianfranco, Gianni e eventuali amici qua sul canale 10. Io faccio quel reti, ciao. Aspetta. Ciao, ci sentiamo. Aspetta. Così Claudio. Aspetta. vabbè. Cos'è qua? Vabbè, che partite sono? Di Champions o di campionato? Cioè, Fiorentina Juve, è lì il campionato. Fiorentina Juve, alle 8 e mezza. Alle 9 meno 4, a me sembra c'è anche un'altra. C'è il Parma che sta giocando alle 6 e mezza. E poi domani ci sono tutte le altre. Domani è bello, c'è anche Milan Lazio domani. O Lazio Milan, non lo so. Ci sentiamo, dai, io scappo. Ciao ciao. Ciao ciao, grazie. E allora dopo mi accendo un po' la TV al calduccio. Già, hai visto che siamo, eravamo al telefono, ho preso la moto, mi ha crepato, c'ho la voce rauca, fa male tutto il collo, mi ha crepato già, non dovevo uscire, cazzo è morto, invece sono uscito, ma gabbato. Come là? Lo so, perché è morto, adesso c'è freddo a uscire, là. Anche se vai piano, se invece è più corretto. Dire che sino a 50 anni non avevo un dolore, da 50 anni in poi ho iniziato con la schiena, con le gambe, con le cose, vabbè, un po' di artrosi, un po' di... comunque per il resto già va bene, non c'è problema. Avanti Gianfra, riprendi. È un modo di dire, fino a... fino all'anno scorso io mi troncavo lo solo il collo facendo ferrato, quindi non è che mi possa più lamentare quando lo dico, infatti mi guardano pure male, ma grandi soddisfazioni, non mi pento di niente. L'unica cosa è che adesso per le stesse ragioni che ci hanno un po' tutti, non riesco più a farne un tubo, ecco, io pensavo che più si andava avanti e più tempo ci avevi per fare le cose, o più stai andando avanti e più ti stanno seppellendo di roba da fare, e quindi sono già parecchi mesi che non riesco ad andare in bici, purtroppo è così. E piano piano te le passioni a una le elimini, come ho fatto io. Prima mi piaceva anche andare a pescare di notte, ma se di notte mi piaceva anche malato. Io ho problemi anche ad ascoltarti quando parli, perché è talmente questa cosa che come ti ha detto cosa lì Roberto, da me non è tanto comprensibile, nonostante ci abbia il filtro molto largo. E cosa volevo dire? Non me ne dimentico, a proposito di vecchiaia, devo andare a pranzo, quindi ci sentiamo più tardi. Vabbè, metti il baracchino così mi ascolti bene, invece che usare l'HF per la 26. Guarda, tu pensa, non so quanti radioamatori possano tenere fino a 7-8 radio accese tutte con antenna. C'ho anche il baracchino, se io accendo il baracchino ti dico anche il modello, che era quello piccolino, non mi ricordo, quello molto piccolo che si sente benissimo, a te non ti sente, praticamente fa perché c'è il limitatore che ti toglie, quindi figurati cosa sarebbe un baracchino. Questo ti ho detto che c'è il filtro, quindi lo posso allargare come se fosse quasi una broadcasting parlando, però è così. Capito. Ok, me ne vado a pranzo, sperando di non prendere la piega di coso lì, di Marco. Spero che lo faccia solo con te, che mi ascoltano tutti. Va bene, vai a mangiare, vai, tranquillo. E mangia poco, che ti fa male se lo mangiare poco. Può darti che sia così. Riprendi, Claudio. Gianni, io lo sento magnificamente bene stasera, veramente molto bene con questa radio, ma anche con le altre, ma con questa oggi è veramente spettacolare, bellissima modulazione, bella ricezione, sono io che ho bene, bene, bene, bene, Ucci. Ciao Gianfra, buona cena, buon tutto, dai, ci aggiorniamo alle prossimine. Già, dammi un secondo che c'ho dei funghi al forno, sia che mi si brucia tutto. Che cosa c'hai adesso? No, ti sto modulando col 140. 140 tornando. Quattro tenta è spento. Adesso faccio tutti i riscatti, così vediamo quanto aumenta. Ah, infatti, vediamo un pochino, la che metto gli occhiali. Prova. Da uno prova però, Questo è uno, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, no, mentre stai parlando falli, intanto c'è la protezione. Mentre parli fai 1, 2, 3, capito? E così voglio vedere bene. Allora, questo è 1, 2, 3, 4, 5, 10. Allora, 1, dall'1, da 9,20 vai a 9,22, poi fai 24, 25, 25, e poi la quarta e la quinta vanno un po' meno del 30 e la sesta va direttamente a 30. E già c'è l'incremento già. Adesso lo posso provare per vedere se andava bene. Ok. Adesso mi deve arrivare il pezzo di dietro, perché praticamente quel disgraziato, quando l'ho ordinato, mi ha detto che mancava quello spinotto particolare che c'ha. Momentaneamente gliel'ho fatto io, capito? Adesso mi dovrebbe fare domani. Io domani non ci sono, sono a San Teodoro. Gli ho scritto se potevano spedirmelo un giorno dopo. Mi hanno scritto se per caso deve cambiare il giorno di scrivere, gliel'ho scritto, chissà che l'abbiano letto. Vabbè, già, cosa succede? Fanno la giacenza e vai te lo ritiri. Non è la prima volta, è successo anche a me, no? Sono venuti, non trovavo nessuno, ti lasciano il bigliettino, quando rientri vai te lo ritiri l'indomani, usate in affitto. Perché se si può uscire così, no? Secondo te, ritirare. È per quello, perché poi va bene dopo tutto lockdown, eccetera, eccetera, capito? È per quello che lo voglio beccare. Già, io mi sono anche dimenticato di chi te l'ho qui l'ambo, da rottura di balle, per carità. Adesso domani non so se attaccarmi l'antenna, andare a San Teodoro o no, e intanto lo vedi su, cioè, capi? Beh, quelli di Olbia ci sono, io non... lì in quella zona non è che magari mi senti, ma io non ti sento. Di Olbia già c'è gente, mi pare che modulano il canale 23. Poi nel 15 io so. E nel 15 e il 23, capito? C'è Ottieri, c'è Tura, c'è Oschi, già ce n'è di gente. Quindi mettitelo, può essere sempre utile. Opera, adesso hanno prolungato la strada, le senti tu, che hanno allungato la